Anche Eddie Borman se ne stava accorgendo perché guardava Gertie in tralice, sorridendo a fior di labbra, con quegli occhiali da zitellona, facendo finta di cullare il bambino. Era una vera zanzara dispettosa e sempre lo sarebbe stata, e per questo nessuno se la faceva con lei, che ficcava sempre il naso dove non erano affari suoi. E disse a Gertie: cosa non darei per sapere a che pensi. Come? Rispose Gertie con un sorriso reso più smagliante dai più candidi denti del mondo. Stavo solo pensando se non è tardi, perché lei avrebbe pagato qualsiasi cosa perché portassero quei due mocciosi e il pupo a casa e buonanotte. E per questo aveva accennato delicatamente al fatto che era tardi. E quando arrivò Sissi, Eddie le chiese l'ora e Miss Sissy, quella linguaccia, disse che era l'ora del bacio e mezzo e ora di ribaciarsi. Ma Eddie voleva saperlo perché avevano detto loro di tornar presto. Aspetta, disse Sissy, lo vado a chiedere a zio Peppe, laggiù che ore sono alla sua patacca. Così ci andò e quando lui la vide avvicinarsi, lei gli vide tirar fuori una mano di tasca innervosito e mettersi a giocherellare con la catena dell'orologio, guardando la chiesa. Per quanto indovinasse la sua indole passionale, Gertie gli vedeva anche un assoluto dominio di sé. Un momento prima era là, affascinato da una bellezza che gli aveva fatto spalancare gli occhi, e il momento seguente era un posato signore dall'espressione grave, il dominio di sé impresso in ogni tratto della sua distinta figura. Sissi disse che la scusasse, gli dispiaceva dirle che ore erano, e Gertie lo vide tirar fuori l'orologio, accostarci l'orecchio e alzar gli occhi e schiarirsi la gola, e disse che gli dispiaceva molto, ma gli si era fermato l'orologio, ma credeva che fossero le 8 passate, perché il sole era tramontato. Aveva un accento da persona colta, e per quanto scandisse marcatamente il suo dire, c'era come l'ombra di un tremito nel dolce tono della sua voce. Sissi disse grazie e tornò indietro con la lingua fuori e disse che lo zio aveva detto che il suo arnese non funzionava. Allora si misero a cantare il secondo versetto del Tantum Ergo e il canonico O'Hellon si alzò di nuovo e incensò il Santissimo e si inginocchiò e disse a padre Conroy che uno dei ceri stava per appiccare il fuoco ai fiori, e padre Conroy si alzò e lo accomodò. E lei vedeva il signore che caricava l'orologio e ne ascoltava il ticchettio, mentre lei dondolava ancora di più la gamba ritmicamente avanti e indietro. Si stava facendo buio, ma lui ci vedeva e seguitava a guardare mentre caricava l'orologio, o comunque ci armeggiava intorno. E poi lo rimise a posto e si infilò di nuovo le mani in tasca. Provò una sensazione come di qualcosa che la pervadesse tutta e si accorse dall'irritazione del cuoio capelluto e della pelle sotto il busto che le succedeva un'altra volta quella cosa, perché anche l'ultima volta era stata quando si era tagliata i capelli per via della luna nuova. I suoi occhi scuri si fissarono di nuovo su di lei, bevendone ogni linea e ogni tratto, come in una vera e propria adorazione davanti a un sacrario. Se mai ci fu aperta ammirazione nello sguardo appassionato di un uomo, la si poteva vedere chiaramente là, sul volto di lui. È per te, Gertrude McDowell, e lo sai bene. Eddie cominciò i preparativi della partenza. E sarebbe stata ora, e Gertie osservò che quel suo lieve accenno aveva sortito l'effetto desiderato, perché era una bella camminata sulla spiaggia prima d'arrivare al punto dove poteva passare la carrozzina, e Sissi levò il berretto ai due gemelli e ravviò loro i capelli per rendersi interessante, si capisce. E il canonico Allan si alzò con la pianeta che gli faceva una gobba dietro al collo. E padre Conroy gli porse la carta da leggere e lesse Panem de cielo prestitisti eis. Ed Eddie e Sissi parlavano dell'ora tutto il tempo, e le facevano domande, ma Gerti rese loro pan per focaccia e rispose con gelida cortesia quando Edi le chiese se il suo cuore fosse infranto perché il suo ragazzo l'aveva piantata. Gerti ebbe una contrazione spasmodica. Un lampo freddo e fuggevole le balenò negli occhi, in cui poteva leggersi l'espressione di uno smisurato disprezzo. Le doleva, oh sì, bruciava sul vivo, perché Edi aveva quel suo modo di dir cose del genere senza parere e sapeva benissimo che ferivano da quella sciagurata piccola gatta che non era altro. Le labbra di Gerti si dischiusero rapidamente per pronunciare quella parola, ma ricacciò indietro a forza il singhiozzo che le saliva in gola, così esile, così impeccabile, così perfettamente tornita che un artista l'avrebbe inseguita nei suoi sogni. Lo aveva amato più di quanto egli non potesse immaginare, infedele dal cuore vuoto e volubile, come tutti quelli del suo sesso, non avrebbe mai capito che cosa aveva significato per lei, e per un istante l'azzurro dei suoi occhi avvampò di lacrime cocenti. I loro occhi la scandagliavano senza pietà, ma con uno sforzo eroico rispose raggiante guardando la sua nuova conquista perché loro vedessero. Oh! Ribatté Gerti veloce come un fulmine, ridendo, levando di scatto la superba testa. Posso lanciare il guanto a chi mi pare. È un anno bisestile. Le sue parole risuonarono cristalline, più armoniose del tubar della tortora, ma tagliarono glacialmente il silenzio. C'era quel non so che nella sua voce giovanile che diceva che lei non era una con cui si potesse scherzare alla leggera. Quanto a Mr. Reggie, con le sue arie e i suoi 4 soldi, lei poteva anche metterlo da parte come spazzatura e non avrebbe ripensato a lui neppure una volta, e avrebbe strappato quella sciocca cartolina in 1000 pezzi. E se dopo lui avesse osato, sia pur lontanamente, lei era capace di inchiodarlo sul posto con una di quelle sue occhiate di misurato disprezzo. La povera signorinetta Edi abbassò le penne non poco, e Gerti si accorgeva, vedendola nera come una cappa di camino, che era furibonda. Per quanto lo nascondesse, brutta forfecchia, perché la frecciata aveva centrato in pieno la sua gelosia meschina e tutte e due sapevano che lei era al di sopra di certe cose, distante, come in un'altra sfera, che non era delle loro. E c'era anche qualcun altro che sapeva e vedeva, e loro potevano anche prendersela su e portarsela a casa. Edi sistemò il piccolo Borman prima di andare e Sissi mise nella carrozzina la palla e le palette e i secchielli. Ed era ora perché stavano arrivando i pisani per il signorino Borman. E Sissi gli disse pure che ce n'era un treno carico e che bisognava far la nanna. E il piccino faceva le risatine con gli occhiuzzi ridenti. E Sissi per scherzo gli fece il solletichino al pancino. E lui, senza nemmeno dire con permesso, rovesciò i suoi complimenti sul bavaglino nuovo. Mamma mia, porcellino che non sei altro! Protestò Sissi. Ha rovinato il bavaglino. Il lieve contretemps assorbì la sua attenzione, ma in 4:48 ella sistemò la faccenduola. Gerti soffocò una mezza esclamazione e tossì nervosamente. E Edi chiese cosa c'era, e lei stava per rispondere di prenderlo al volo, ma lei si comportava sempre da signora. Così riparò semplicemente con un tatto consumato, dicendo che quella era la benedizione, perché proprio allora risuonò la campana dal campanile sulla spiaggia tranquilla del mare, perché il canonico Allon era salito all'altare con il velo che padre Conroy gli metteva sulle spalle, dando la benedizione col Santissimo Sacramento in mano. Che scena toccante là, tra le ombre del crepuscolo che si addensavano. L'ultimo bagliore di Erin, il commovente rintocco di quelle campane serotine, e al tempo stesso un pipistrello uscì dal campanile rivestito d'edera nella mezza luce, svolazzando qua e là con un esile grido sperduto. Ed ella poteva vedere a distanza le luci dei fari tanto pittoresche che le sarebbe piaciuto di rifarle con una scatola di colori, perché è più facile che rifare un uomo, e tra poco il lampionaio avrebbe iniziato il suo giro al di là del recinto della chiesa presbiteriana e lungo l'umbratile Tritonville Avenue, dove passeggiavano le coppie, e avrebbe acceso il lampione vicino alla sua finestra, dove Reggie Wiley soleva girare a ruota libera, come aveva letto in quel libro Il lampionaio di Miss Cummings, autrice di Mabel Vaughan e altri racconti. Perché Gertie aveva i suoi sogni, di cui nessuno sapeva nulla. Le piaceva leggere poesia. E quando ebbe come ricordo da Berta Supple quell'incantevole album di confessioni con la copertina rosa corallo per scriverci dentro i propri pensieri, lo mise nel cassetto del tavolino da toeletta, che, per quanto non peccasse di lusso eccessivo, era scrupolosamente ordinato e pulito. Era là che teneva i suoi piccoli tesori di fanciulla, i pettini di tartaruga, il distintivo di figlia di Maria, il profumo di rosa bianca, la ciglioleina, il portaprofumi d'alabastro e i nastri di ricambio per quando la sua roba tornava dalla lavanderia e c'erano dentro dei bei pensieri scritti in inchiostro violetto che aveva comprato da Healy di Dame Street perché sentiva di poter scrivere poesie, solo che avesse potuto esprimersi come quella poesia che le fece un'impressione così profonda che se l'era ricopiata dal giornale che aveva trovato una sera dove erano rinvoltati gli odori. Sei reale, o mio ideale, si chiamava, di Louis J. Walsh, di Maghera Felt, e dopo c'era qualcosa come Crepuscolo, sei mai tu? E più volte la bellezza della poesia, così triste nella sua grazia transeunte, le aveva offuscato la vista con lacrime silenti per gli anni che le fuggivan via, a uno, e se non fosse per quell'inconveniente, lei sapeva di non dover temere confronti, ed era stato un incidente scendendo da Dalkey Hill, e lei cercava sempre di nasconderlo. Ma doveva pur finire, lo sentiva. Se gli scorgeva negli occhi quell'irresistibile malia, nulla più sarebbe valso a trattenerla. Contro l'amore non c'è porta che tenga. Avrebbe compiuto il grande sacrificio. Ogni suo sforzo sarebbe stato diretto a condividere i pensieri di lui. Gli sarebbe stata più cara di ogni altra cosa al mondo ed avrebbe indorato i suoi giorni di felicità. Quella era la questione più importante di tutto e lei ardeva di sapere se era sposato o un vedovo che avesse persa la moglie o qualche tragedia come quella del nobile con quel nome straniero della terra del canto che aveva dovuto farla rinchiudere in manicomio, crudele, ma solo per bontà. Ma anche se, che mai, ci sarebbe poi stata una gran differenza. Da tutto ciò che minimamente suonasse indelicato, la sua delicata natura istintivamente repugnava. Aborriva quel genere di persone, donne perdute che battono il marciapiede lungo il Dodder, che andavano coi soldati e con gente grossolana, senza rispetto per l'onore d'una ragazza, che disonorano il loro sesso e si fanno accompagnare al posto di polizia. No, no, questo no. Sarebbero stati soltanto buoni amici, come un fratello maggiore e una sorella, senza tutto il resto, ad onta delle convenzioni della società, con la S maiuscola. Forse era per una vecchia fiamma che portava il lutto dai bei giorni che non tornano più. Credeva di capire, avrebbe cercato di capirlo, perché gli uomini sono così diversi. Il vecchio amore aspettava, aspettava con le bianche manine tese, con gli occhi azzurri imploranti. Oh, cuore mio, avrebbe seguito il suo sogno d'amore, i dettami del suo cuore che le diceva come lui fosse tutto per lei. L'unico uomo in tutto il mondo che facesse per lei, poiché è l'amore a governare il mondo. Nient'altro importava. A tutti i costi sarebbe stata indomabile, sfrenata, libera. Il canonico Hallon ripose il Santissimo Sacramento nel tabernacolo e il coro cantò Laudate Dominum omnes gentes. E poi chiuse lo sportello del tabernacolo, perché la benedizione era finita. E padre Conroy gli porse il berretto. E quella gatta furiosa di Eddie le chiese se non veniva anche lei. Ma Jackie Caffrey gridò: Guarda, guarda, Sissy! E tutti guardarono. Era forse un lampo di calore, ma Tommy lo vide anche al di là degli alberi accanto alla chiesa, azzurro e poi verde e violetto. Sono i fuochi artificiali, disse Sissy Caffrey. E corsero tutti lungo la spiaggia, facendo una gran confusione per vedere al di sopra delle case e della chiesa, Eddie con la carrozzina e il piccolo Boardman dentro, e Sissy che teneva per la mano Tommy e Jackie perché non inciampassero nel correre. Vieni, Gertie! Gridò Sissy. Sono i fuochi della pesca di beneficenza! Ma Gertie fu tetragona. Non aveva alcuna intenzione di stare a loro disposizione. Se loro volevano scavallare come diavoli, lei invece rimaneva tranquilla a sedere. E così disse che vedeva veramente bene da dov'era. Gli occhi che le erano incollati addosso le mettevano il formicolio nelle vene. Lo guardò un istante, incrociando il suo sguardo, e la luce si fece in lei. C'era una passione rovente in quel volto. Passione tacita come una tomba, ed era quella che l'aveva resa sua. Finalmente erano rimasti soli senza nessuno a sbirciare e a far commenti, e lei sapeva che di lui si poteva fidare fino alla morte. Costante, un uomo tutto d'un pezzo, un uomo d'onore inflessibile fino alla punta delle unghie. Le mani e il volto di lui vibravano. E un tremito la pervase tutta. Si piegò tutta all'indietro per vedere meglio i fuochi e si strinse un ginocchio tra le mani per non cadere, guardando in su. E non c'era nessuno a vedere, solo lui e lei. Quando, senza parere, rivelò tutta la graziosa vaghezza delle gambe ben modellate, flessibili e delicatamente arrotondate. E le pareva sentire il palpito del cuore di lui e il suo rauco respiro, perché sapeva tutto delle passioni di uomini di quel genere, del sangue caldo, perché Bertha Supple le aveva detto una volta in segreto e le aveva fatto giurare che mai avrebbe di quel signore che era loro inquilino, che era dell'ufficio zone sovrappopolate e aveva fotografie di ballerine con le gambe per aria. Ritagliate dai giornali, e lei diceva che lui poi faceva qualcosa di poco bello che si può immaginare delle volte stando a letto. Ma questa era tutta diversa da una cosa come quella, perché tutta la differenza stava lì, perché lei poteva quasi sentirsi attirare il viso contro il suo e sentire il primo, rapido, caldo tocco delle sue belle labbra. E poi c'era la soluzione finché non si faceva quell'altra cosa prima d'essere marito e moglie, e ci dovrebbero essere preti donne capaci di capire senza bisogno di dir lor tutto. E anche Sissy Caffrey quella volta aveva quel certo sguardo sognante negli occhi, perché anche lei, cara mia, e Winnie Rippingham, così fanatica per le fotografie degli attori, e oltre a tutto era per via di quell'altra cosa che arriva in quel modo. E Jackie Caffrey gridò che guardassero, ce n'era un altro, e lei si gettò all'indietro. E le giarrettiere erano azzurre per intonarsi e per mettere in rilievo la trasparenza. E tutti lo videro e urlarono di guardare. Guarda, eccolo! E lei si gettò ancor di più all'indietro per vedere i fuochi. E qualcosa di strano volava per aria. Qualcosa di morbido, avanti e indietro, scuro. Ed essa vide un lungo bengala che saliva di là degli alberi, su, su, e in un silenzio teso a tutti mancò il fiato per l'eccitazione, mentre saliva sempre più in alto, e lei dovette gettarsi sempre di più all'indietro per seguirlo con lo sguardo, in alto, quasi a perdita d'occhio. E il suo volto era soffuso di un divino, seducente rossore per lo sforzo, E lui poteva anche vedere altre cose di lei: mutandine di batista, il tessuto che accarezza la pelle, meglio di quelle altre mutande a pantalone, verdi, a 4 scellini e 11 pence, perché erano bianche. E lei lasciava che lui, e vedeva che lui vedeva, e poi salì così in alto che si sottrasse alla vista un istante. E lei tremava in ogni parte del corpo per essere così gettata all'indietro, e lui poteva vedere tutto quel che voleva al di sopra del ginocchio, dove mai nessuno, neanche sull'altalena o quando si mettono i piedi in acqua. E lei non si vergognava, e lui neanche di guardare in quel modo impudico, perché lui non poteva resistere alla vista di quelle mirabili rivelazioni semiprofferte, come quelle ballerine che si comportano così impudicamente sotto gli occhi dei signori. E lui continuava a guardare, guardare. Avrebbe voluto gridare con voce soffocata, tendergli le svelte braccia nive perché egli venisse, sentire le sue labbra posarsi sulla sua bianca fronte, il grido d'amore di una fanciulla, un piccolo grido strozzato, strappatole a forza. Quel grido che è risuonato nei secoli dei secoli. Allora partì un razzo e pam! Uno sprazzo di bianca luce accecante e oh! Il Bengala scoppiò e fu come un sospirare di oh! E tutti gridarono oh! Oh! In estasi di rapimento, e ne sgorgò un fiotto di pioggia di fili d'oro e si sparsero e ah! Ora erano tutte roride stelle verdastre che cadevano con altre dorate, oh, così vive, oh, tenere, dolci, tenere. Poi tutto si sciolse rugiadosamente nell'aria grigia, tutto tacque. Ah! Gli lanciò uno sguardo nel chinarsi rapidamente in avanti, un piccolo sguardo patetico, di pietosa protesta, di pudico rimprovero sotto il quale egli avvampò come una fanciulla. Egli si appoggiava alla roccia dietro di lui. Leopold Bloom, sì, non altri che lui, è là, in piedi, silenzioso, a testa bassa, di fronte a quei giovani occhi innocenti. Che brutto è stato. Un'altra volta quel lavoro. Una bella anima illibata si era rivolta a lui e, miserabile, come aveva risposto? Un vero farabutto era stato. Lui, proprio lui. Ma c'era un'infinita riserva di misericordia in quegli occhi, una parola di perdono anche per lui, per quanto avesse errato e peccato e vagato. Lo andrebbe a raccontare una ragazza? No, mille volte no. Era il loro segreto. Loro soltanto, soli nel crepuscolo avviluppante. E non c'era nessuno che sapesse e potesse dire, eccettuato quel piccolo pipistrello che volava pian piano qua e là nella sera. E i piccoli pipistrelli non parlano.